Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Oggi parliamo di EFSA, l'acronimo indica lo European Food Security Agency, quindi un'agenzia basata in Italia, importante per il lavoro che fa sulla sicurezza alimentare. Il servizio è di Maria Luisa Pezzali. Dalla mozzarella blu alle lasagne alla carne di cavallo, passando per Escherichia coli e frutti di bosco all'epatite A. Sono solo alcuni degli scandali alimentari più o meno recenti che hanno messo a dura prova i consumatori europei e le strutture preposte alla sicurezza del cibo che arriva sulle nostre tavole. Da 11 anni EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, valuta rischi e procedure per mettere in sicurezza la filiera. Alberto Spagnolli, capo ufficio esecutivo. L'EFSA è un'istituzione che opera nell'ambito di un complesso di azioni che costituiscono le politiche comunitarie sulla sicurezza alimentare, si occupa di una parte di queste azioni. L'EFSA copre quello che noi chiamiamo l'analisi del rischio. Le politiche di protezione del consumatore dai rischi legati al cibo comprendono l'analisi del rischio, ma poi comprendono anche la gestione del rischio, cioè tutte le misure di regolamentazione che vengono messe in piedi a livello sia europeo che nazionale, quindi dalla Commissione europea e dai ministeri della salute nazionali, per poi tradurre le analisi che l'EFSA fa in misure concrete che possono portare appunto a proteggere i consumatori dal rischio. Quindi l'EFSA copre questa parte. Quando si parla di sofisticazione e truffe, si parla soprattutto di aspetti di ispezioni, di aspetti di tracciabilità, di aspetti di veridicità delle etichettature o di significatività delle informazioni sulle etichettature. Questi sono aspetti che competono come decisioni al gestore del rischio, quindi alla Commissione europea e alle autorità nazionali. L'EFSA produce dei rapporti scientifici, delle analisi scientifiche che aiutano queste istituzioni a mettere in piedi le loro misure, ma non se ne occupa direttamente. In ogni caso, quando c'è un caso di sofisticazione di truffa, ci possono essere delle implicazioni di salute dei consumatori. Infatti, sul caso per esempio della carne di cavallo, l'EFSA ha valutato il rischio legato alla presenza nella carne di cavallo di certi residui chimici da medicinali che sono tipicamente utilizzati per curare i cavalli e che nel momento in cui la carne di cavallo entra nella catena alimentare possono portare a eventualmente dei danni ai consumatori. Il rapporto di quest'anno per EFSA è stato il primo dopo il decennale. È un traguardo molto importante, è una cosa che 10 anni fa, quando EFSA è stata creata, non era poi così scontata. EFSA è un'organizzazione ancora giovane, ma comunque che comincia ad avere il suo peso. Un documento molto importante che è stato adottato l'anno scorso è la strategia scientifica. Spiega come EFSA vuole cercare di evolvere la propria presenza, il proprio modo di lavorare nei prossimi 4 anni. Lo spettro delle nostre attività è molto ampio, abbiamo tanti dossier, tantissimi soggetti e sicuramente l'etichetta salutistica è stato un dossier estremamente impegnativo per noi, un rapporto che poi è stato utilizzato dalla Commissione europea per determinare la lista delle indicazioni nutrizionali che possono adesso essere utilizzate dai produttori. È stato di grosso impatto anche sulle grandi industrie agroalimentari. L'ispezione delle carni, un altro dossier molto importante per poter fare in modo che le ispezioni del futuro vengano basate un po' di più su un'analisi del rischio. Abbiamo anche degli dossier che sono molto presenti sulla stampa, aspartame, il bisfenolo A e poi in ultimo il lavoro che abbiamo fatto sulla salute delle api. Abbiamo determinato che c'è un rischio che l'uso di pesticidi possa influenzare la salute delle api. In un'Europa sempre più allargata, spesso a velocità variabile, l'attività di EFSA in questi anni si è rafforzata a livello di condivisione, di supporto europeo? Sicuramente si è rafforzata. Il fatto che l'Europa possa essere più allargata, a diverse velocità, con diverse situazioni, porta a una necessità di più integrazione, soprattutto per quanto riguarda le politiche della sicurezza alimentare. I cittadini europei hanno tutti diritto allo stesso livello di protezione, non ci sono cittadini di serie B e cittadini di serie A, quindi è importante che i parametri e le analisi vengano svolti a livello europeo. E poi per il progetto europeo è assolutamente importante che questo tipo di valutazioni e di decisioni vengano prese a livello centrale, perché come poi è l'origine dell'EFSA, in caso in cui le decisioni vengono prese separatamente, come vi ricordate forse il caso della mucca pazza, avevamo una situazione in cui i francesi avevano una certa valutazione, gli inglesi ne avevano un'altra e quindi poi il commercio di carni a livello europeo era completamente distorto e i prezzi non andavano più bene, la disponibilità dei prodotti era limitata dovuto al fatto di politiche puramente nazionali basate su una una visione dei fatti diversa. Questo è incompatibile con il concetto dell'Europa. Grazie a Maria Luisa Pezzali, l'appuntamento con l'Europa dopo il weekend naturalmente, quindi torniamo lunedì, un buon fine settimana a tutti voi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.